piace la musica, stare nuda e nessuno che giudica. Amo il cibo di strada, i capelli del mare, anche farmi del male, che stupida. Meno male che non prende l'iPhone, tra le onde alte di Rio. Un silenzio che mi spezza un po', che mi brucia un po', come fa uno shot. E quante parole che lasciano un vuoto, ti lasciano solo qualcosa in cui credere. Niente di serio se uno dei due se ne va per una bugia di più, nascosta sotto le labbra, poesia di contrabbando. Ti ricordi quando era soltanto un gioco? Chiamo io, chiami tu, chi è il primo che cede stasera? Dove, dove, dove, dove? Solo io, solo tu, tanto non ne vale la pena. Chissà dove sei. Dove, dove, dove, dove? Ogni volta che stiamo così non serve a niente, tanto è sempre lunedì. Lo stesso film, non mi aspettare, non ti scordare di me mai più. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama, chiama. Come i rami contorti dell'edera, ci aggrappiamo a una scusa ridicola. Siamo qui ad aspettare in un limbo infernale. L'amore è una cosa più piccola, e cosa rimane se troppe persone si fottono il cuore a pensare che poi non è niente di serio se uno dei due se ne va per una bugia di più, nascosta sotto le labbra, poesia di contrabbando. Ti ricordi quando era soltanto un gioco? Chiamo io, chiami tu, chi è il primo che cede stasera? Dimmi dove sei. Dove, dove, dove, dove? Solo io, solo tu, tanto non ne vale la pena. Chissà dove sei. Dove, dove, dove, dove? Ogni volta che stiamo così non serve a niente, tanto è sempre lunedì. Lo stesso film, non mi aspettare, non ti scordare di me mai più. Che pensavo a te come una voce che è fragile come l'idea di stare con te. Volevo stringerti a me come fosse per sempre ancora. E ogni volta che stiamo così non serve a niente, tanto è sempre lunedì. Lo stesso film, non mi aspettare, non ti scordare di me mai più. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu.